trovare gli Ice Cream a Cena. Loro tra l'altro verranno a suonare qua il 29 luglio insieme alla Brain. Pensate, accomodatevi, l'abbiamo sfruttati un pochettino, adesso li facciamo mangiare perché è giusto che sia così, sempre. Bentornati ragazzi anche a voi e anche agli Ice Cream, bentornati alla cena dei regini. Adoro questo programma, adoro chi lo conduce, adoro le persone che lo, soprattutto chi lo conduce, questo è un altro discorso. Non l'ho messo in dubbio, perché mi permette di parlare di Reggio, non Reggio, Calabria, città immaginaria del sud Italia. Ma quella, di Reggio? Quella reale, in quella reale ad esempio c'è stato qua da noi all'Auso Bacca il convivio col professor Pissias, lui che ci è venuto a trovare dalla Grecia, ha parlato un po' del problema delle armi chimiche da smaltire, da un attimo elaborare nel Mediterraneo, per meglio dire come non si dovrebbe fare, e tra l'altro è passata una serata, due serate con noi, una alla Cena dei Regini con un'intervista che sta andando fortissimo, molto seguita, molto cliccata sul web, è un convivio, c'è cioè una cena qua che è stato con noi e ci ha raccontato un po' le sue esperienze di vita, cioè ci ha già raccontato un attimo il suo pensiero, un attimo dalla sua grande fonte di saggezza. Quanto è bello avere alla cena queste persone qui. Lo saprei anche io se ci fossi stato. Lo chiedo, l'unica persona che non c'era quella sera. No, quindi... è stata veramente un'esperienza fantastica. Esatto, ma tu da utente, che l'hai visto da casa, cioè eri nel tuo lettino, hai cliccato da... quanto è bello guardare anche una trasmissione così. È bello perché è su YouTube. L'hai visto. E anche su YouTube, perché non ci ascolta tramite radio a Bagualla. In radio, quindi questa serata bellissima, spettacolare, anche un po' poetica, perché oltre al cibo questo convivio di persone che hanno cenato assieme, e poi siamo andati avanti per cambiare sempre ovviamente argomento il giovedì con la serata horror, proprio collegati tutt'altro, perché comunque bisogna cioè, dare il dolce e il salato. L'Auso Bacca cos'è? È questa grande varietà di sfumature, questo è vero, e quindi perché poi ci arriviamo anche al resto. La serata horror, quanto è stato bello guardare Imprint di Takashi Miike assieme, la scena, qual è la scena che ti è rimasta più impressa? Sembra che stia mostrando delle scene che hanno veramente risvegliato le paure ataviche dei presenti, perché comunque particolare, perché voglio dire, è stato bellissimo, un film... Non ti immaginare. Perché capisci, parte dalla cultura giapponese, da quella anche un po' coreana, perché il film è prodotto là, e proponeva alcune scene anche abbastanza particolari, un film veramente di nicchia che ci ha veramente soddisfatto, perché comunque da gustoso amante dell'horror, capisci, vedevi questa scena di aghi, di cose che succedevano, una storia particolare. Succulente immagino. Fantastico. Pugne. Sì. Soprattutto perché prima ci siamo anche mangiati una pizza nella veranda dell'Aus, quindi... Che poi è ritornata all'Aus. Non dire così che pare cattiva pubblicità. Un'ottima, ottima pizza, no, mangiata all'Aus, sì. Quindi... E che Andrea non ha saputo gestire bene l'impatto con il film. No, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto degli aghi con la mia mente. Il ragazzo è vivo, sta bene, tutto a posto, e questa sera mangerà, ha portato tantissime cose buone da mangiare, quindi chi meglio di noi? Chi meglio di noi? Chi? Nessuno, ovvio che sia così. Ragazzi, in più la serata della partita, tutta Italia davanti alla partita della nazionale, che ricordiamo cos'è il calcio? È il momento in cui l'Italia, questo paese assolutamente immaginario, si ritrova intorno a uno sport di 11 miliardari in pantaloncini che corrono dietro a un pallone, e noi non potevamo sottrarci a questo rito, ovviamente. Quindi abbiamo proiettato la partita nella saletta dell'Aus, poi per voto popolare abbiamo visto tutt'altro negli ultimi Tesoro. Ho visto un'altra roba che non c'entrava nulla, per voto popolare da assolutamente ovazione, però abbiamo visto gli ultimi 5 secondi della partita, che sono state emozionanti, ricchi, proprio veramente bellissimi. C'era un tizio che prendeva una palla da terra, addirittura. Eh sì. Oh, che cosa, queste cose sono successe. Ricordiamo i capelli di Paletta. I capelli di Paletta, che noi non abbiamo visto qua perché pensavamo ad altro, però comunque ci sono arrivati anche questo tizio che si è fatto una riga molto ampia. Ragazzi, altra settimana all'Aus, cosa ci aspetta? No, perché uno dice, ma cosa c'è in una casa in cui ti viene a trovare il professore Greg, vedi il film horror con le unghie, eccetera, vedi la partita di calcio, cos'altro potrà succedere? Di tutto. Innanzitutto c'è di nuovo la Horror Night il giovedì. Esatto. Poi venerdì c'è di nuovo la partita. Capisci? Horror e night. Domenica c'è Camelot. Ah, guarda come è preparato. C'è Camelot. Sì, perché l'ho letto qua. Non è bello. C'è un altro film horror, ti rendi conto? Qual è stavolta? lo sceglieremo in questa tramite un sorteggio con una... Quale potrebbe far più schifo, Andrea? Preso da un sacchetto. Ma ragazzi, sabato il concerto Unplugged at Sunset con gli Alba di Morrigan, il North Fingers e Roberto Iero, che si esibirà in uno spettacolo assolutamente irripetibile, perché questi ragazzi sono abituati a stare attaccati alla 380, a suonare, a fare... quello che Panda definirebbe grande musica ad alti livelli, invece noi assolutamente proporremo una serata diversa, cioè Unplugged, una versione rivisitata. È come, non lo so, vedere un concerto dei Pooh. Io sono un fan accanito dei Pooh. Magari di Pooh no, però dei Pooh Unplugged, com'è? È diverso, cioè è un'altra sensazione comunque. Oppure Laura Pausini metal, cioè non vedo l'ora. Però no, questo è molto meglio, ovviamente è una situazione molto particolare, anche la possibilità di cenare direttamente all'house, quindi questo mix di cibo e musica che ci piace assai. E poi domenica Ars live di Camelot, ritorniamo a Camelot finalmente, sono successe delle cose l'ultima volta, a parte l'attacco, da cui per fortuna siamo riusciti a tornare vivi, di un gruppo di briganti vivi. Che parola grossa. Non siamo morti, più o meno. Eravamo... è stato questo attacco e siete stati praticamente sbaragliati, però comunque alla fine sono riusciti. Vedrai Bach, la prossima volta andrà molto diversamente. Ma ragazzi, c'era un personaggio, il cosiddetto console Onofrius, che ha fatto delle cose in gioco che voi avete diciamo, preso sotto camera. C'è un altro personaggio che ha fatto cose peggiori in gioco, che avranno risultati nelle prossime. Andrea, siamo fottuti. Può succedere. Può essere anche questo. Ragazzi, domenica, spada alla mano, Free Edge of Camelot. Non vedo l'ora. Cioè, dopo un mese penso di essere l'unico che non sta nella pelle di poter tornare nell'epoca arturiana. Neanche io, perché voglio dire, è bellissimo. Di tutti i live è quello più particolare, quello con una scenografia diversa, la possibilità di prendersi a spadate che non è, e poi la possibilità di dare un PNG a un giocatore e vederlo rinsavire così improvvisamente. Ragazzi, il back.it per riascoltare le altre puntate della Cena Regini e per avere tutto il calendario di questo mese e del prossimo, che ci saranno grandi novità mese prossimo. Mi raccomando, guarda, il Andrea. Il back.it, chi vuole picchiarsi con la spada può venire a farlo, perché sono quelle là di gomme, quindi non si rischiano le denunce, è bene dirlo. Adesso un piccolo spazio musicale e poi torniamo con i nostri ospiti di questa puntata, la Cena dei Regini, a tra poco. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla Cena del Regino. Ragazzi, la Cena dei Regini, bentornati all'angolo delle notizie fondamentali, quelle raccattate in giro per il web dal Panda e da tutti gli altri che le vogliono suggerire tramite cena@back.it, se avete qualche notizia particolare, cioè, oppure magari se siete voi stessi una notizia di cui parlare, non lo so, può essere anche, potete mandare questa segnalazione. Le notizie più strane, le elenchiamo, le commentiamo assieme ai ragazzi della Cena dei Regini. Iniziamo con una notizia che è molto romantica, diciamo molto poetica, perché lei si chiama Jinna Yang, è orientale cinese, e pensa, il padre è scomparso, ma lei per esaudire il suo desiderio di visitare il mondo ha stampato questa sagoma di suo padre e si sta facendo le foto davanti a tutti i monumenti che suo padre avrebbe voluto visitare. Quindi sta girando il mondo con questa sagoma, si fa una fotoricordo assieme alla sagoma, il padre la mette su internet, è diventata un fenomeno, un personaggio del web, insomma una storia particolare, commovente, comunque al di là della scomparsa, no? Al di là si rileva in giro con un pezzo di cartone che le ricorda il padre scomparso, si fa le foto davanti ai monumenti e lo ricorda così. Quante immagini di sottofondo la donna? Allora mio, familiar faces. Direttamente. Ma ragazzi, cosa ha segnato questa settimana informatica tecnologica? Sicuramente la disfatta della Wind, la rete che è crollata improvvisamente qualche giorno fa e poi è tornata in auge rapidamente. Ma la cosa curiosa è che il web si è scatenato a comunque commentare e ironizzare sulla notizia, perché giustamente c'era chi ha commentato dicendo ah, meno male che non mi era scaduta la bolletta e non avevo pagato. E quindi questo blackout incredibile, cose da altri tempi. C'è stato un odio verso la Wind incredibile. Totale. C'è persone che gli precavano contro, bestemmie, di tutto. Addirittura il sito di Grillo è anche crollato a causa di questa cosa, cioè tanti siti di una certa rilevanza che erano ospitati sul server Wind. Voi avete avuto disfatte, avete avuto appuntamenti saltati, qualcosa, eccetera. Sì, non internet mi andava come volevo lui. E basta. Mi dispiace Wind, ma c'è una grande prevalenza qua. Invece c'è chi ha avuto disagi anche potenti, perché voglio dire. C'è un nostro amico Giuseppe Tilo, che ha fatto due giorni chiedendo su internet. Come mai non funziona Wind? Come mai? Credo che sia l'ultimo. Lui adesso lo saprà grazie a questa cosa, perché gli sarà tornata nel frattempo internet. Ragazzi, la tecnologia che a volte c'è, a volte ci abbandona, a volte si realizza come non te lo aspetti. Noi da ragazzini, no, soprattutto io sono un po' più agile, diciamo così, sognavamo tutti supercar, questa macchina ipertecnologica che si guidava con la voce che rifletteva, eccetera. E la tecnologia è arrivata quasi a quei livelli, però si sa, la crisi, l'emergenza, eccetera, dicendo. È stata realizzata la bicicletta intelligente che si guida grazie allo smartphone, cioè tu colleghi lo smartphone a questa biciclettina con la quale hai un dialogo e comunque che riesce a registrare i tuoi dati della tua salute e il tuo utilizzo della bici e farne anche uno schema da evidentemente suggerire al tuo dottore. Pensa tu. Non è venuto la cena dei Gini che ha fatto questo. Eppure ci sta suggerendo per i prossimi mesi una bella pedalata con la bicicletta intelligente. Pensa che è bello avere una bicicletta che ti prende in giro come ti prende in giro, che caspita. E poi tu sei là e dici Kit, vieni a prendere, uno si immagina che sai cosa arriva la bicicletta. Magari col cestino davanti. Quella col cestino. È la ruota che cicola, ovviamente, okay. Grande classico, ragazzi, soprattutto. La bicicletta la usiamo tutti, voglio dire. Reggio si è riscoperta da un anno a questa parte, grande patria di tutti i ciclisti. Ragazzi, ma l'altra volta ho visto addirittura il terzo. Vedi, sono tantissimi. 18 anni di vita. Perché adesso i ciclisti, i reggini, devono stare su internet a criticare la pista ciclabile. Ovvio che non li vedi in giro. Ragazzi, la tecnologia, io non lo sapevo, ma c'è addirittura anche un l'Unicode Consortium, cioè questa diciamo associazione, questo ente che fa come dire, gestisce le faccine che usiamo comunemente nel cellulare e via dicendo. Quindi dice ad esempio, dichiara che due punti e parentesi chiusa vuol dire smile. Dichiara che non lo so, due punti o vuol dire la bocca aperta, però si sta evolvendo, soprattutto grazie a WhatsApp. Le faccine sono diventate tantissime e adesso ne sta aggiungendo di nuove. Ma c'è una faccina che è la più richiesta di tutte. Qual è? Secondo voi, una faccina che vi manca nel WhatsApp? Una faccina che vorreste. Io faccio quella di Marci. La lei vuole quella di Maggio Silva. Non è cosa da tutti. Avete... Io non ho voluto. Qual è la faccina più richiesta? Consideriamo che già troviamo la faccina con la chitarra, la faccina con l'aereo, con le cose. Una che vi sentireste proprio... Ce n'è una che è stata cliccatissima, ricercatissima. Lo smile classico. Lo smile classico, quello c'è già, perché voglio dire, è di base. La bocca, la lingua da una parte. Diamo la lingua da una parte, eccetera. Ah, non c'è il bacio. Il bacio c'è, il bacino classico. C'è uno smile che è stato il più richiesto di tutti i tempi da inserire queste cose, è lo smile che mostra il dito medio. Incredibile, cioè loro vogliono lo smile col dito medio e sarà inserito in questo nuovo set di faccine. Perché? Che la mattina evidentemente per dare un buongiorno. Ma non c'era su PSN già. No, parliamo dell'Unicode Consortium, che è l'associazione che gestisce le faccine, quelle universali, che si trovano dall'iPhone fino a WhatsApp, diciamo, quindi è una cosa... Ma se ne si potevano creare proprio da soli. C'era il cartello con scritto sti cazzi. Suggeriamo anche questo, che è importante. La mattina, ciao, E gli metti una bella faccina di dito medio, bella ingrandita, là. Quindi capisci bene il tuo umore la mia mattina. Oppure, ma che giornata hai avuto? Mi manca il messaggio. Buongiorno. Esatto. Poi. E quindi voglio dire, grandi nuove faccine che arriveranno anche ad essere così, diciamo, colorate per le nuove generazioni. Però dai, ti esprimi un bel messaggio con queste faccine. Assolutamente. È un messaggio universale. Ma le nuove generazioni meritano. Noi tempo fa abbiamo discusso della grande notizia, della grande classifica dei giochi più pericolosi, tra quali spiccava il reattore nucleare del dottor Gilbert. Un giocattolo per bambino che veniva venduto nei negozi di giocattoli, è appunto un piccolo reattore nucleare. Con tanto di bustina di uranio impoverito, succedeva negli anni 50 in America, ne abbiamo parlato tempo fa. Ma ragazzi, mi dispiace ricordarlo che il reattore nucleare del dottor Gilbert non è più in vendita. E quindi cosa si fa? Cosa si fa? I giovani, questa risorsa incredibile, lo costruiscono. Un tredicenne ha costruito un reattore a fusione nucleare in casa. Un progetto che ha portato avanti con la scuola, è successo in America. Con la scuola? Ovviamente sì, 14 anni, Jamie Edwards si chiama lui, è diventato il più giovane scienziato nucleare al mondo per aver realizzato questo reattore. Ha fatto tutto ovviamente sotto la supervisione della scuola, che ha finanziato anche il progetto, che tra l'altro gli è costato pochissimo, perché circa 2.400 euro, quindi anche una cosa a basso costo. Cioè, pensate. Facciamolo anche qua. Pensiamoci, perché voglio dire. Lo chiamiamo e lo facciamo oggi, domani, no? Ma pensiamoci niente, perché nelle scuole italiane i fisici nucleari non ci vedono proprio. Ma nelle scuole italiane basta scavare un poco per trovare fusti con materiali naturali. L'uranio impoverito, cioè che sarà mai? Un settore noi trovare chissà usato, cioè, è un evergreen, lo metti su internet e lo vendi. Sì, dire. Il dottor Gilbert ci ha fatti i denari. Come si costruisce una bomba atomica? No, cioè, è il prossimo passo. Troveranno il nostro evento. Ragazzi, quindi i giovani, grande prospettiva, perché se riescono a fare questo, voglio dire, vuol dire che effettivamente c'è un grande intelletto, una grande cosa. Una grande curiosità oppure un piccolo genio del male. Però c'è anche una minaccia, succede a Boston, una minaccia incredibile, una figura che sta terrorizzando i campus universitari. Il villain dell'America. Peggio, perché lui è reale. Indossa una maschera da sci ed è ricercato anche dalla polizia ed è il solleticatore seriale. Lui praticamente va in giro per il campus, va a cercare le persone che stanno dormendo, entrando addirittura nelle loro camere, e le infastidisce solleticandole oppure stando lì a fissarle. E la polizia dice non è una cosa da sottovalutare, perché comunque questo tizio, con questo suo modo da fare abbastanza... particolare, strano, inquietante, così, dice sta diventando un problema per la comunità. Il solleticatore seriale. Carinissimo. Immagina tu. Sopra, poi, tu dormi e c'è quello davanti a te fa. Sì, di sopra. Vieni ti fa il sottolineo sotto i piedi. Come minimo vuole prendere i maschiate. Secondo me i maschiate sono proprio l'inizio. Pensa, ti svegli, ti senti toccare a un certo punto e chi è il solleticatore seriale, questa figura. Esatto, deve avere una tecnica mostruosa, perché se ancora non l'hanno preso la polizia addirittura. Infatti è questo, non l'hanno ancora beccato, non si riesce a capire. Un infiltrato che è passato dall'altra parte. O forse c'è i suoi poderi. È passato dall'altra parte, può essere tutto, ragazzi. Può essere anche che un signore lascia una pianta all'interno di una bottiglia nel 1972 senza innaffiarla e la ritrova oggi come una mini foresta all'interno di questo boccione, veramente spettacolare da vedere. Lui l'aveva dimenticata questa piantina all'interno di una bottiglia, l'ha ritrovata anche non avendola innaffiata, non avendola curata. Io ho visto due volte, mi sembra tutta la tua vita. La natura ha fatto questo spettacolo, la dimostrazione anche che... La natura non ha bisogno dell'uomo. Essenzialmente, e questa è la dimostrazione, che l'uomo è l'unica cosa che, non è, che è contro natura. E la natura lavora per bene da sola. E il signor Latimer, che è quello che ha fatto questa cosa, ci dà anche la ricetta per questo ottimo... praticello, questo orticello, diciamo così, che poi è una piccola foresta all'interno della bottiglia. Dice che abbiamo messo solo un po' di compost, un quarto di litro di acqua, una demigiana di vetro da 10 litri, uh-huh, abbastanza grande, e da là la natura ha fatto il suo corso ed è andata avanti. Pensa tu, non è commovente, non sì, si vede, no, è fantastico. Comunque, ho detto di non comprare più piante, sono belle. Contatta il signor Latimer che lui avrà. Non posso dire. Il segreto è non comprarle. No, il segreto è abbandonarle. Come ha fatto lui? Cioè, hai lasciato un po' d'acqua là, via. Poi torni dopo 40 anni e diventi un genio di internet perché hai fatto questa cosa. Questa notizia subito guardato Andrea, subito stavo interessato. Ragazzi, bollino rosso, Andrea, non guardare che poi diventi cieco, perché grande moda di internet di questa settimana, soprattutto la nuova frontiera delle selfie. Ormai abbiamo visto selfie di qualsiasi tipo. Il cane si fa la selfie da solo. Il cane, il gatto, l'elefante che si fa la selfie da solo. C'è stato di tutto, quindi l'after sex, ne abbiamo parlato l'altra volta, ma adesso la vera moda è il cosiddetto under boob. La nuova frontiera dei selfie è quella di farsi una selfie da sotto la maglietta e quindi lasciare intravedere il seno prosperoso. Lo farò anche intravedere. Dai. Intravedere. Dai, basta. Sì? È bello della diretta. Facciamo vedere. E sta spopolando, è uno degli hashtag più utilizzati su Twitter. E qual è l'hashtag? Underboob. Interessante. Vogliamo che sia per informazione generale. Ovviamente. Ce n'è un altro che sta andando ancora di più e che è molto più triste, che è il selfie after funeral. Ma... perché? Cioè, il selfie dopo il funerale sociale. Magari con il nonno nella bara. In quel modo, ci sono i bambini e fanno con il nonno dietro. Santo cielo. Così è. Oppure evidentemente con la tomba dietro. Perché? Vabbè, ma tra i due non so qual è il peggiore. Quello col funerale, dai. Sì, Ma per me cioè, significa proprio la morte dell'essere umano, non tanto per l'atto in sé, perché non è nulla contro chi è amante dell'erotismo in ogni suo forma. Però questo è proprio la cancellazione di ogni. È solo esibizionismo. Del peggiore, capito? Ma sempre meglio questo che quello fare davanti a col nonno cadavere. Tutto le ridono, non lo so. No, sì, ridono. Tutti ridono. Cadessi pari. Ragazzi. Ragazzi, sono le mode del momento, sono quelle che arrivano, passano. Speriamo che passano. Per i funerali, speriamo che passano, perché è veramente duro. Però underboob, teniamolo presente, può essere. Ovviamente per informazione personale. Interessante. Ragazzi, ilback.it per ascoltare le altre puntate e continuare a seguire questa. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale con la classifica pazzesca, tra poco. Ragazzi, la Celle Regini, l'angolo della classifica, si è aperta l'estate. Si è aperta l'estate. L'estate il tempo è quello, dai. Una cosa tipica dell'estate qual è? Il mare. Mare, il gelato. Gelato. E il l'ombrellone. Come diceva? È rimasto all'underpub. Le zanzare. Le zanzare. Le chiappe. Ma soprattutto le repliche in televisione. Le repliche in televisione sono, ci sono quei programmi, quei 12 programmi che sono istituzionalmente replicati durante l'estate. Sono quelli là che vedi distrattamente, cioè mentre sei sul divano o mentre non sei sul divano. E la TV non c'è Dragon Ball, perché poi lo fanno tutto l'anno. No, no, quello ancora no. Partiamo dal numero 12, poi mi direte anche le vostre classiche repliche. Il nostro amico Charlie. Una serie che sinceramente a me sfuggiva, cioè questa le avventure di questa scimmietta, che evidentemente quello che fanno alle 12:30 prima del telegiornale su Rai 1. Sarà una cosa del genere, sarà sì, mi sa tanto di no, è che orrendo, io odio queste cose con gli animali. Lui l'ha beccato, le cose con gli animali. Ma forse è un film o un telefilm? Telefilm. Alla numero 11, ragazzi, un telefilm che ai suoi tempi ha avuto anche un film. Un film. Anche abbastanza famoso, dai produttori di Jurassic Park, si chiamava Twister, e questo lo replica. I film del gioco per terra. Cioè, 12 persone che no. Dei tizi, dei. Come si chiama? Tornado. Cacciatori di Tornado. Questo film è replicato praticamente. Ma personalmente dico che vale. Anno. L'ho visto e vale molto. Esatto, abbiamo. Più di 10 anni fa. Quindi abbiamo l'unico fan di Twister in Italia. Lo ospiteremo la prossima volta. Va bene, grazie. Questa cosa, ragazzi, andiamo avanti. Arma letale, la serie di polizieschi. Ha più anni di me, forse. Sì, assolutamente, anni 80, primi anni 80. E pensa tu, ogni anno viene replicato, mi sembra che sono 4 episodi, forse ne stanno facendo anche il quinto. Esatto, stanno producendo il quinto. Davvero? Sì. Ma forse 6, No, mi sembra siano 4. 4 ora stavano per produrre il quinto. Celebre la scena della bomba messa nel cesso? Eh sì, c'era veramente di tutto, perché erano questi poliziotti, diciamo, sopra le righe, tra virgolette, che comunque sconfiggevano il male. Io l'avevo visto quando ero bambino, non è niente male, ma rivederlo ogni volta penso sia seccante. Perché c'è sempre quella scena che tu dici, ma davvero era così, ti sfugge qualcosa. Ti sfugge qualcosa anche guardando quest'altro film replicato puntualmente, Pretty Woman. Un film che ha fatto la storia, diciamo. Una donna è la sua scalata al successo. Sì. Una Julia Roberts d'altri tempi. Perché non replicarlo ogni anno? Una domanda. Perché? Perché replicarlo ogni anno? Cioè, tutti la maggior parte della generazione moderna, soprattutto le ragazze, ma pensa tu, sono veramente purtroppo ho letto quando non ho visto un bambino, quindi a un certo punto ho dovuto chiuderlo. Ma infatti io mi ricordo che era scandalo Pretty Woman, adesso invece anche a domenica pomeriggio lo trovi là accanto a domenica Barbara D'Urso, ed è più scandalosa la D'Urso, sì. Figuriamoci, ragazzi, altro film con la bandiera della D'Urso. Ovviamente altro film imperdibile, anche qua ha fatto diversi proseliti, Dirty Dancing. Loro che ballavano, lui era super così, lui era un angolo, dai, chi non l'ha mai detto, nessuno. No, ragazzi, no. Tra l'altro nel suo periodo assolutamente bellissimo, di splendore, e lui realizzò anche la colonna sonora, se non ricordo male, l'aveva cantata lui di Dirty Dancing, se non ricordo male, aveva fatto il pezzo di introduttivo. Sì, comunque lui era bellissimo. Lui là è Ghost. Abbiamo capito perché viene replicato ogni anno. C'è lei che ogni anno vota, no, fatelo. Lei, nel senso, la fetta femminile che ancora vede in Patrick Swayze. Questa... Sono i classici che... Infatti anche Ghost viene replicato ogni anno. Sono sempre belli, cioè non per il ragazzo, per il donne. Perché non si fanno sentire meglio. Nuovo, che palle. Altro mito femminile è la principessa Sissi, e viene replicato ogni anno la trilogia dedicata ai film. Ah, è una trilogia? È una trilogia, con Romy Schneider nei panni della principessa, è una trilogia di film con lei che interpreta la principessa Sissi, un'icona di bellezza assolutamente, eccetera. Quindi ogni anno è importante inculcare alle ragazzine questa idea. C'è proprio di Pretty Woman. Però, vedi, Pretty Woman... Devi vedere tutto, Sissi, però. Ovviamente, però c'è questa idea. Allora ragazzi, perché non replicare qualcosa di più leggero, di più nostrano, eccetera, come un grandissimo capolavoro della cinematografia moderna che è Le ali della libertà. Grande Sabrina Preferilli, grandissima Virna Lisi, ragazzi, che è presente in ogni produzione italiana dal 95 in poi. Le ali e la libertà, questo che io non ho mai visto, sinceramente. Cioè, classifica italiano? No, italianissimo. La Fellini interpretava un insegnante di canto. No, io parlo della classifica, sì, italiana. È basata su dati italiani. Sì, insomma. Sì, sì. Allora, mi sorprende, tanto non ci siamo alla numero 10. Quanto siamo arrivati? Italiani, no, ci siamo arrivati. No, perché ce n'è uno che sicuramente sarà per il più breve. No, una ancora più che lo fa ogni anno. Tipo? Mamma ha perso l'aereo. Ma quello è Natale. Quello è il natalizio. Sì, quello è il natalizio. Ma lo fanno almeno due. Lo vedo tu. No, o sì, quando perso l'aereo a Ferragosto. O sì, fanno l'estate. Vero. O sì, fanno l'estate, ad esempio. Un classico. Dragon Ball è stato l'anno diverso. È stato inverno. Dragon Ball è tutto tipo collezione. Bellissimo, eccetera. Qual? Ci arriviamo tra poco, altro capolavoro film che è veramente irripetibile, con un cast internazionale, si chiamava Dante Speak, La furia della montagna, film che hanno visto penso in 4 al cinema, poi 400 nella cosa, lui con Pierce Brosnan nel periodo migliore, c'è Pierce Brosnan, ci puoi riuscire, Pierce Brosnan. Lui! Nel periodo migliore, prima di fare 007, era questo, sì, era qualche anno prima, però nelle repliche funziona, cioè evidentemente c'è chi lo guarda. Non è, lo mettono per sbagli, però il secondo è lontano, non voglio andare, lo vedo. Non è per riempire i buchi, no, non lo rimettiamo, questa programmazione è Dante Speak, vai. Poi D.A. si vede che gli viene prima nel digitale, il digitale D e subito gli esce Dante Speak e lo mettono. Altro classico del cinema, classico delle repliche, Sister Act, questo qua, a nastro, bello. La replica estiva. Ricordiamo ragazzi le repliche d'estate, cosa c'è di meglio che guardare Sister Act, che poi è il prequel di Suor Cristina che va a cantare. Oh, Suor Cristina è diventata persona da lei, visto? Sicuramente. Goldberg si è fatta suora apposta per interpretare questa cosa. Mi sento una bella persona perché non ne conosco neanche uno. Meglio no, di, tutti que- di tutti questi neanche uno. Neanche Sister Act. Neanche Sister Act. Ma il prossimo sicuramente sì. Avrai sicuramente visto Volo 534 Panico ad alta quota. No. Il film no. Con la grandissima. è il grandissimo. Tizio. Volo 534, film che io disconosco. Però sembra che sia replicatissimo. Cioè chi lo conosce qua? Volo no, io ho visto. Ok. C'è qualcuno che mi ricordo assolutamente la. Gli è rimasto impresso, però dai. Però cioè, non dice altro. Mi ricordo no, forse non l'ho mai visto. Un film che potrebbe capitare di vedere quest'estate, ma un telefilm che sicuramente rivedrete quest'estate. È il telefilm più buonista di tutti gli anni 90, Settimo Cielo. Quanto è bello questo telefilm! Quanto è bello! Mamma mia! Perché sono tutti buoni, fanno tutti in chiesa. Io credo che questo sia stato un esperimento psicologico, perché mettono questo telefilm nelle prime ore del pomeriggio d'estate, sempre da quando ero piccolo, quindi proprio nel massimo lo. L'hai visto tutto. Ragazzi, io odiavo questo film, ma me lo vedevo. Me lo vedevo, ma lo odiavo. A parte perché quello c'era, no? Ma la cosa particolare di questo telefilm, parlando del telefilm che ha lasciato Jessica Biel, capolavoro. La cosa particolare di questo telefilm è che parte con loro che sono tutti buoni, vanno in chiesa, il reverendo eccetera, e alla fine una è madre, una finisce col poliziotto, una madre di 10 anni, l'altra 17, l'altro padre, no, non è vero, una diventa reverendo come il padre, l'altra si sposa, mi fa, ma non mi ricordo che lei aveva 16 anni e viveva sopra come quello che sembrava 35, era un anni settimane. Quindi sono film veri? Sì, sì. A quanto pare, Andrea. Una mamma per amica, l'hanno ripetuto 40 anni. Una mamma per amica, sì. No, no, è finita tutta la stagione, poi inizia di nuovo. No, è proprio al ciclo completo. L'hanno fatto 2 volte di seguito, basta. Quante stagioni di settimo giallo? Sette stagioni. È capitato di vedere una foto della bambina di settimo giallo adesso? Perché? A riconoscerla, guarda, anche Abby, anche il cane sentava. Anche il cane è diventato. Il cane sentava riconoscerla perché è una cosa. Ragazzi. Ma innanzitutto chiudiamo la classifica. Il più replicato nella storia, penso in generale, della televisione. No, secondo me è col vento. Oppure? Io dico Holy Watch, no, quindi no. Happy Days. Beverly Hills. Ma c'è meglio entrambi, secondo voi? Classico, Grizzly, io dico... No, quindi non è mai finito, qua è importante. Ma non c'è la capo, perché non sono riuscito a dire. Ossì. Quale ce n'è uno che voi vorreste vedere replicato sempre? Cioè avere un canale dove tu dici becco sempre. I Simpson ogni anno da 15 anni. Ah, ecco. Quelli sono 25 no, anni di. Andiamo a vedere i Robinson. I Robinson. Che bello. Tu del papà nero che faceva quello che era pelato. Ah, ho detto. No, la vita secondo Gini. Quale? Sì, le cassette sono state sotterrate nel deserto di Sonora. Per evitare. È vero. Un indizio. È un telefilm o un film? Scusate, allora, è un film cosa, classico. Che non è mai stata più replicata, è proprio famosissima. Che film ha fatto Carmen San Diego? Caspita. Una volta è stata fatta, ha fatto il botto, mai più. Ma io ogni tanto c'è un motivetto. Nel frattempo. Il più replicato, ovviamente, incredibile, è Via col Vento. Via col Vento. Le due serate in cui ci si spara tutta la storia di Via col Vento col grande finale. Io ogni volta che sapevo che c'era, lo ignoravo. No, è un grande, lo devi vedere almeno una volta nella vita. Addirittura in America c'è un film che lo trasmette ogni sera a replica continua. Un cinema dedicato a Via col Vento. Questo lo conosco, ma mai visto. The Gold Band. Cioè, io mi aspettavo Piccole Donne, quelle che non riescono. Piccole Donne. Oppure quello di Anna Frank. Insieme a Passione da me. Anche se lo fanno in tutte le. Ma quello è più da inverno. No, però The Gold Band è il classico per eccellenza. Sì, assolutamente. Non è il paese di ragazzi, comunque questa era la classifica di questa settimana. C'è una chiocciolabacca.it per dire cosa voi vorreste vedere, se volete un canale che trasmette sempre i ragazzi della terza C, che no, a qualcuno mai alle 5 del mattino, basta. Perché lo fanno ancora questo problema. Oppure quello che volete, Baywatch ad esempio, un grande suggerimento, ha sempre degli ascolti. Questa era la puntata della cena dei regini, dal Bac e dai ragazzi della cena, un salutone a tutti. Ragazzi, salutiamo con un applausino. siamo in radio e su YouTube. Un saluto dal Bach, ciao.